possa ascoltare. Bellissimo. Il fatto che sia torto ragione, il fatto che si vive e si muore. Bellissimo. E mettersi gli occhiali da sole, sì, lo so che fuori piove, ma è bellissimo. E il fatto che mi senta solo, così solo, è davvero così bello da vivere. E stupirsi un po', perché no? È bellissimo. So dove andare, bellissimo. Guardare il tramonto del sole e sentire la storia che passa, bellissimo. E poco prima di arrivare, dietro la curva c'è il mare, lo vedo benissimo. E stupirsi un po', perché no? È bellissimo. È bellissimo. Sì, bellissimo. Bellissimo. E a volte anche farsi male ci piace. Il provare, rischiare, fallire, bellissimo. E sapere di potermi sbagliare, mi piace. Ma l'idea di potermi fidare, in fondo è